Allora meglio gli apparati da 50 euro che lo fa qui da 300. Vai giù. Foto di microfono, non so cosa dice, vai anche, cosa ti dice, perché mi avevo una spiegazione di questo, vero i bordi del meccanico, chi controlla, io capivo, o che verde è modulazione, perché questo qua è gana, bene modulazione, te ridi forte con la modulazione, che è la cosa che, il burro è quella, è me che ho capito, Carlo, No, dormo mia tanto mia notte, purtroppo, non so, è un mese che non è che dormo tanto a notte, sono andato a bevorare l'orto, ai 7, dopo ho fatto una lavatrice e adesso ho steso la roba, tra poco ho fare un po' di spesa, della settimana, comunque hanno con mia voglia a spendere scherzo che la roba qua, massimo. Dagli amici tuoi, dammi il tuo QRA per cortesia. Copi, stazione John, Germania, mi copi. C'è l'alternata quando metto la portante. Va bene, ciao. Attenzione amico di Vicenza, attenzione amico di Vicenza. Ci cupano le 10, c'è qualcuno in ascolto. Attenzione amico di Sassari, attenzione amico di Sassari. CQ10. Attenzione Sassari, attenzione Sassari. Attenzione Sassari. C'è qualcuno qui sul 10. Attenzione, c'è qualcuno sul 10. Thank you. qualcuno qua? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione, 10. Scusate, scusami. Attenzione, canale 10. Hola, attenzione, 10. C'è qualcuno qua? CQ 10. Ciao Gianmarie, me lo dai un controllo se ti lascio la portante fissa a vedere se c'è l'alternata? Non ti ho ascoltato, c'era uno che ti ha sovramodulato, Gianmarie. Gianmarie, c'è o non c'è la portante? Che c'è questo che arriva più forte di te? Passa 23. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Qualcuno qua? CQ10, c'è qualcuno qua? CQ10. CQ10, c'è qualcuno qua in ascolto? CQ10. SB non ti ascoltavo io. Io sì, bene, benissimo, e ho detto non c'era l'effetto vibrato che sentivo ieri, magari era una cosa anche che influiva la propagazione, c'erano mille segnali sotto me. Lo so, comunque esco bene in SSB. Bene, bene, devo spostare il clarifier un po' tutto a destra, mentre per le altre stazioni lo porto, diciamo, metà corsa a destra, per te tutta la corsa a destra. Conta che l'apparecchio è freddo, però è freddo, l'ho appena acceso, si deve ancora centrare, dai. Vabbè, perché io non andavo a centrarti e non ti riuscivo a centrare, vuol dire non parlavi tu. Ma certo che stavo parlando, in risposta a te stavo parlando. Ui, comincia la testa, mamma mia. Vabbè, là, Marco, a te non riuscivo a centrarti perché ci avevi l'affare spostato. Comunque già dalla mattina qua propagazione FM, NSB, di tutto Italia, anche sento. Ieri notte fino a notte inoltrata, tipo a luna, arrivava a Germania, Inghilterra, Santiago Nova in FM, era una cosa impressionante. Sì, me lo posso immaginare. Cazzo, ce lo stavo per buttare nel cassonetto questo apparecchio. No, e perché? È perché non c'è nessuno che te l'aggiusti. Ma scusa, perché è rotto? Non è rotto, è solo da allineare al limite. Se tu leggi il manuale di servizio ti accorgerai che è una fesseria da fare. E senza frequenzimetro voglio vedere come cazzo fai. Tu fai orecchiometro, basta avere un apparecchio che sia centrato in ricezione e anche in trasmissione e fai tutto orecchio, come ho fatto io con l'altro 3009. L'altro 3009 col display rosso, l'ho centrato orecchiometro. E adesso un bijou. Dovrò fare la stessa operazione con questo, ma con calma farò. Ti stavo dicendo, Marco, quello per lo smitter in trasmissione, qual è il trimmer? In trasmissione, Natalia, aspetta. Vediamo se ce l'ho se ce l'ho ancora in memoria nello smartphone, lo schemino. Però lo schemino te l'avevo mandato, guarda su WhatsApp. Su WhatsApp? Tocca accendere il computer qua. Vabbè, vediamo un po'. Gli altri c'è sul 10, da Sassari. Si è già svegliato. Cos'è? C'è nessuno? Che casino di propagazione, chi è? La propagazione è troppo alta, non riesco ad ascoltarvi. Ah, Tino, tu sei? Sì, ma ieri notte fino a luna in notte inoltrata. Segnaloni Santiago 99 più in FM, tedeschi, inglesi, una cosa folle. Ciao Marco, buongiorno. Ti ascolto in mezzo a loro. Più tardi metto l'aiutino, dai. Adesso devo fare colazione ancora. Va bene, no, io sono già agganciato. Va bene, dai, ci vediamo più tardi allora. Ciao, divertitevela. Ciao Tino. Ciao Natale. Ciao Tino, più tardi. Ci sono gli occhi a fessura, Natalia, ho ancora gli occhi chiusi, non riesco a tenerli aperti. C'ho lo schema qua. Quello giallo, colorato di giallo, sì. Io lo sto cercando qui sullo smart. Ce l'avevo sempre, ma in ora buona. Magari eccolo qua. Allora, RF meter, quindi in trasmissione, RF meter VR8. Aspetta che lo cerco, dov'è? VR8, sì, trovato. VR8. Sì, che ci sono qui tutta quella lunga fila di trimmer, no, sono 1, 2, 3, 4, 5 in fila, più 2 sotto, no? VR8 è, anch'io l'avevo regolato da poco, l'ho regolato intorno al 9, in Santiago 9 in trasmissione, perché se no mi segnava troppo, capito? Infatti, bisogna metterlo sul 9, Sai perché io avevo quel vezzo 995 lo mettevo, no? Perché quando in macchina, per esempio, hai stazionari o sui canali alti o bassi, te ne accorgi subito, perché anziché essere intorno al 9 o sale troppo o sale troppo poco, allora vuol dire che hai stazionarie. Capito? Non c'è bisogno nemmeno di mettere l'SVR cal, te ne accorgi da quanto sale lo smith. E infatti, VR8 trovato, quello per i canali qual è? Cazzo, ma non mi rammento dov'è il jumper. Quello per i canali, cosa intendi? Per abilitare tutti i canali. Ah, Allora, tu guarda giù verso il frontalino, devi guardare, no? Aspetta, adesso qua, io ho questo schema qui, no, mi ci vuole l'altro schema. Comunque tu guarda verso il frontalino dell'apparato, zona centrale, un attimino, Che cazzo, dove cazzo è? Comunque, attrice, quello schema non è proprio indicato. Io avevo una foto bianca disegnata in bianco e nero, che ti faceva vedere la posizione, vediamo se è questa. No, questa non è. Eppure ce l'ho qua, appena la trovo. Vabbè, già io lo sapevo dov'era, ma non me lo ricordo adesso. Quasi ti copre in mano laterale. Allora, hai trovato quel giamperino? Si toglie con le pinzette. Marco, guarda che c'è Potenza che sta chiamando. Lui magari è Potenza, ma io sono in Potenza, sono senza lineare adesso. Ti ascolto. Prova tu, Tino. Aspettami, guarda, adesso ti ascolta Marco, ti ha chiamato. Vai l'amico di Potenza. Ok, sento soltanto voi due che parlate, non so se ci sono altri nella rotellina. Buongiorno qui dal Principe comunque. Vai Marco, buongiorno, vai Marco che ti ascolta. Un saluto all'amico di Potenza, sono liscio, sono senza aiutino, ho 3 watt. Vediamo un po' se mi ascoltate, un M, avanti. Sì, ti ho ascoltato, non ho capito il nome, e non so da dove che stai modulando. Qua è da Potenza comunque. Ciao Marco, dalla città di Sassari, nord Sardegna. Ho capito, sì, ci sono presenti sull'altro canale, sul canale 5, se non mi sbaglio, Davanti ancora tu. Marco, non l'ho trovato il jumper, dov'è? Mi ha detto guardare verso il frontalino, ma non riesco a trovarlo. Leggermente verso la parte anteriore, abbastanza centrale. Guarda che è nascosto un po' da altri componenti. E non riesco a trovare quella... Non riesco a trovare quello schemino che io avevo, che non era uno schema, era una foto in bianco nero, un disegno era. Oh, scusate un attimino, l'amico di Potenza ti puoi spostare canale 12, grazie. Ok. A dopo, vai. sta lineare è dura, cioè già mi sente, però con lineare mi sentirebbe meglio. Allora sto scartabellando i file scaricati, no? Con le foto, schemi, modifiche, però questo disegno in bianco e nero non c'è, porca miseria, e non riesco a trovarlo su internet. Ma si può essere più pirla? Io cercando tra le immagini invece era un PDF era. Natalino, ci sei ancora? Sono qua, Marco. Adesso te lo mando il PDF, lì c'è la spiegazione breve. E l'ho già trovato, già fatto. Ah sì, prova a salire di una banda. Adesso sono in quella di sotto proprio. E come in quella di sotto? Tu sei su 10 normale, lo sai, sì. Ma c'è scritto via. Sì, sì, via, esatto. Sali di una banda, prova. Marco, ci sei? Marco? Via. Vedi che già l'ho trovato. Via è il coso hai, dove c'è il coso del tono, là. Ehi, hai visto? Semplice, semplice. Allora, documenti. Modification Super Jopix, sì, perché io lo dovevo cercare, la modifica la dovevo cercare col nome Super Jopix, Super Jopix 2000, che è uguale. Adesso fai, condividi, così se te la chiede qualcuno gliela puoi passare. WhatsApp, vediamo, Nataloide, eccolo qua, e te lo mando. Io lo sto già chiudendo. Via. Non badare ai watt, non badare ai watt, a te interessa solo il jumper, i canali, dai. QR12, quello è lì. Quindi banda normale, banda allargata, ok. E infatti non ci ho guardato i watt, perché mi dà 4 watt in AM. In banda laterale quanto ne dà? 12, la cosa legale è 12 watt picco, o picco, non so, c'è una differenza anche lì. Aspetta, metto le altre due viti. Mentre avviti, io ti dico, ogni tanto io gli rimetto il jumper in posizione stesa come adesso, perché per far lavorare tutta quella sezione di radio che normalmente sarebbe esclusa, per evitare proprio che poi smetta di funzionare quella parte di radio che non usi quando lo usi solo versione 40 canali, capito? Chi altro c'è sul canale 10? Avanti. Ui, non c'è nessuno, sono tutti a dito in culo, sono tutti stanchi per feste, mare, ziminate, orge, bagordi. Dati voi, io sono inchiodato a casa. Io ho messo lei queste due viti. Marco, adesso non mi vuole chiudere da una parte. Natali, chi è avanti? Ehi, Gian Maria, l'ascolto. Adesso sono a casa, dai che ti do un controllo. Perché stamattina il magazzino mi veniva male. Me lo stava dando Marco. Guarda, ti lascio la portante, dai. Guarda un po'. È perfetta, no? Non è rumore di nulla. È perfetta. Premi un po'. Sono col microfono normale adesso. Sto guardando perché non mi chiude. Ecco qua. Chiuso? Ciao Gian Maria. Allora, l'ho sentita sporadicamente per un secondo mentre hai fatto l'ultimo passaggio. Forse toccando, tenendo il cavo in mano, che ne so, l'alimentazione, il microfono. Però credo che sia sparita del tutto. E sono contento. Buongiorno Marco, ben sentito, buona domenica. Infatti io lo sento pulita, tranquillo, non ce n'è nessun rumore sul fuoco. Sì, sì, sì, infatti, prima, quando era ieri, avevano come un'alternatina, forse anche stamattina, questa specie di non so nemmeno se fosse un'alternata oppure qualche altra cosa, vabbè. Natalia, adesso già non sei solo sul canale, io vado a far colazione anche perché mamma sta aspettando me per far colazione, dai, provvedo. Sentiamo, ciao, ciao anche a Gio Maria, riprendi Gio Maria. Ok, ciao mamma, buona domenica, ci sentiamo, alle prossime, ciao, vai Natalia. Ciao Marco, adesso metto la chat e siamo a posto. Gio Maria. Gio Maria. Ora, anda bene, avanda bene. Ok. Gio Maria. Gio Maria. C'è qualcuno sul 10? Marco, ci sei? Adesso non mi funziona la ricezione, lo Smith. Facciamo stare. Marco, ci sei? Grazie, sono a posto. Hola, hola. Marco, tu sei? No, qua qua, ma ne sono per di svella. Ciao, cla. Allora. Guarda se senti l'alternato, ti lascio un attimo la portante che mi hanno detto che avevo l'alternato. No, non sento niente io. Perfetto. Perfetto. Che ci dice, che ci dice? Io sono un po' assente in questi giorni. Che ci dice? Claudio, Natalino sta facendo cose in cucina. Ciao. Ciao, con c'è, va bene, già sono qua in ascolto. Ok. Chi è avanti? Natalia, tu sei? Eglia. No, sto provando questa antenna verticale che non è per qua. Ma già sto uscendo, sì. Sì che stai uscendo. Santiago 9 sta arrivando. No, vabbè, infatti, già sto qua, vado alle stazionarie a quanto ne... già sono basse, dai, 1 e 4, 1 e 3 sono. Oh, i segnali sono tutti abbassati, questa è a lunga distanza. No, stavo facendo un giro qua, 27, 560, 5. Guarda, ci sono radioamatori, o sono pirati, non lo so. In banda laterale però erano. Fregatene, robe. Vivi e lascia vivere. E ci mancherà, me la fatti nuda, solo stavano andando nuovi attivi, infatti ho detto buh, stavo ascoltando, ho detto, cazzo, fuori banda erano. Erano fuori banda, sì, perché loro non possono scendere i 27, loro devono rimanere sui 28. E certo che sì, infatti ho detto, buh, almeno erano americani, comunque stavano parlando americani, ho sentito, ho fatto copita lì, yes, yes, poi ho lasciato perdere, un altro nominativo, ho detto, lasciamo, non è per noi. Ma ok che loro possono usare una banda un po' più bassa. E vabbè, tu non ne dare nominativo se sono fuori banda. No, ci mancherebbe, c'è qualcuno che fisca, chi è avanti? Oh, con questa antenna tutto il QRM è abbassato, mi si sono abbassati tutti i segnali, però il QRM almeno non senta brutto come l'altra. Sì, oggi propagazione al massimo. Me ne sono accorto, ho fatto un giretto adesso, però nelle bande 27, banda CB, sopra non più di tanto, perché sta andando sul cluster, riesci a vedere cosa c'è. Niente di importante, 21, tutto poi, tutto pieno di contest, adesso è un problema, non c'è niente. Aspetta, c'è un test, un diploma, io sto facendo un po' di diplomi, io sono anche piazzato bene. Sì, va bene, divertiti, divertiti, adesso a novembre io devo dare l'esame, speriamo di farcela, Robè. Hai già fatto la domanda? No, la domanda non l'ho fatta, sono a novembre, ancora non l'ho fatta la domanda. Dice che sono a novembre comunque. Entro il 30 di settembre la devi fare, normalmente le fanno fine ottobre e inizio di novembre, è quell'arco di tempo. E la farò un po' prima io. Poi quando vogliono mandare la risposta, ma che me la mandino. Ma c'è una proposta di legge, non so se viene applicata, che non saranno più gli ispettorati, cioè è stata pubblicata dalla Gazzetta, come si chiama? La Gazzetta Ufficiale, la Gazzetta dello Sport, la Gazzetta Ufficiale, dove si diceva che sarà compito delle sezioni territoriali, per dire l'area di Sassari dovrà occuparsi della zona di Sassari, l'area di, non so, di Olbia per la zona di Olbia, e gli esami verranno fatti in loco, tipo la patente della macchina, che prima si faceva solo la motorizzazione, adesso si può fare anche con le abilitate, naturalmente nell'autoscuola, o la revisione, che prima si faceva solo la motorizzazione, adesso si può fare anche nelle officine abilitate. E così vogliono fare per il fatto della cosa, della patente radioamatoriale. E vabbè, intanto non ti posso né aiutare né niente, perché è online, e quindi non può parlare nessuno praticamente. Anche se la fanno in sede non ti possono aiutare. No, no, non è più online, è online solo per il periodo del coso, del Covid, adesso è finito, non ce n'è più, a meno che non so farla ne fa Black, Black Friday, no, a parte gli scherzi, comunque era online solo provvisoriamente, sarà sempre come prima. A me mi hanno dato conferma che è online a novembre, gente di lì proprio, la notizia è arrivata proprio da là. Capito. Guarda, io l'ho letto sulla rivista specializzata, c'è il forum, io sono iscritto a un forum su internet e si è parlato proprio di questo, no? Non sarà online. Poi se la riprorogheranno per motivi di pandemia non lo so, però era soltanto una cosa momentanea. Ok, vediamo se c'è qualche altro qua, canale 10. La modulazione è schifo qua. Natalia. Sì. Ok, avanti. Che sto mangiando, capito? Vabbè. C'era mia moglie che stava a parlare. Ah, come ho detto, sembrava qualche... Molto brutta questa radio con questa modulazione. No, vabbè. Cappa, e ce ne faccio un giro sulle altre bande, dai, vediamo un pochettino se riesco a fare qualche punto per il diploma. Dai, ciao Natali, ci sentiamo Ari se coincide più tardi. Ciao ciao. Ciao ciao. CQ 10, c'è qualcuno all'ascolto, cambio. CQ 10, qualcuno all'ascolto, cambio.